partire in questo viaggio attraverso i musei più curiosi del nostro continente insieme a Giulia Belardelli. Allora Giulia, vai, ti seguiamo, accompagnaci tu di mostra in mostra, di museo in museo. Bene, allora il nostro viaggio virtuale può iniziare proprio dal Regno Unito e in particolare lo facciamo iniziare dalla cittadina di Maidstone nel Kent, dove si trova il Dog Collar Museum, che è l'unico museo al mondo interamente dedicato all'accessorio canino per eccellenza, ossia i collari. Interessante. La collezione la collezione è, diciamo, è originariamente creazione di una coppia di irlandesi, John e Gertrude Hunt, che a un certo punto hanno deciso di donare tutto quanto a Leeds Castle. E quindi la collezione è andata aumentando e oggi raccoglie centinaia di collari che vanno dal 400 fino al 20 secolo, e quindi è possibile osservare come è variata nel tempo la funzione di questo oggetto, perché se prima aveva una funzione protettiva, quindi per proteggere i cani dai morsi di lupi, orsi e cinghiali, poi dopo nel 600 ha prevalso la funzione ornamentale, quindi con questi collari molto pacchiani, possiamo dirlo, in velluto, cuoio, se non in argento e pietre preziose. Ah, sì, immagino. Quindi, ok, poi dopo i collari? Dopo i collari possiamo passare all'Islanda con un museo decisamente originale, che è il Museo Fallologico Islandese. Museo Fallologico? Fallologico, sì, hai capito bene Federico, e questo è l'unico museo al mondo a ospitare campioni fallologici di tutte le specie presenti in un singolo paese. Ah. E il fondatore originale di questa insomma impresa si chiama Sigurdur ed è un professore di storia spagnolo in realtà, che però fin da piccolo ha coltivato questa passione per il collezionismo fallologico per un regalo che gli è stato fatto, insomma, quando era piccolo, ossia un frustino fabbricato con un membro di toro. Insomma, regalare a un bambino un oggetto del genere lo espone ovviamente alle prese in giro di compagni e amici, per cui ha cominciato a ricevere a mo' di fottò dei peni di balene. Ok, insomma, poteva diventare un maniaco, invece ha messo su un museo, è andata bene, come direi. Sì, ha preferito, quando è diventato maggiorenne, si è ritrovato con tutta questa, insomma, armamentario di falli e così via, e quindi ha deciso di farci su un museo, che poi dopo nel 2004 si è spostato nel villaggio peschereccio di Húsavík, la capitale europea dell'avvistamento di cetacei, e oggi ne fanno parte più di 250 diciamo reperti. Si va dagli orsi polari ai cetacei, alle foche, ai tricheti, insomma c'è un po' di tutto. Perfetto. Un terzo museo che ci vuoi segnalare? Un terzo museo è in Turchia, questa volta quindi andiamo a una candidata ad entrare nell'Unione Europea, e è il Museo dei Capelli. Sì. E la storia di questo museo anche qui è intimamente connessa a quella del suo fondatore, che si chiama Galip ed è un vasaio turco in realtà, quindi si potrebbe stupire del collegamento tra capelli e vasaio. Però in realtà quest'uomo è, anche la foto su internet è abbastanza curiosa, insomma c'è lui con questa criniera di ricci, perché tutte le estati tiene una sorta di workshop, di corsi estivi in cui insegna ai turisti a fabbricare vasi in ceramica, e sembra che a un certo punto una donna, una turista francese, abbia deciso di salutarlo in maniera originale, ossia lasciandogli attaccata al muro una ciocca di capelli con un biglietto, con la scritta così che il proprietario non si possa mai dimenticare di me. Mm-hmm. E a quel punto la settimana dopo un'altra turista ha visto questa originale saluto e ha deciso di lasciare anche la sua ciocca, e così è nato il Museo dei Capelli nei sotterranei di questa bottega, che poi è entrato addirittura nel Guinness dei primati, non si sa esattamente quante ciocche ci siano dentro, si è perso il conto, nel 96 erano più di 16.000. Ok. Insomma, una grande ammasso di capelli. Altri musei che ci ha segnalato: il Museo dei Gatti, è il primo ristorante esclusivamente per animali domestici a Mosca, il Museo dello Stoccafisso ovviamente in Norvegia, il Museo delle Matite ancora a Londra, però vorrei chiudere con il Museo dei Carri Funebri a Barcellona. Ecco, sì, chiudiamo con questa nota un po' strana per Barcellona, città estremamente vivace e colorata. In realtà c'è questo Museo dei Carri Funebri che si trova a nord di Barceloneta ed esattamente nei sotterranei del palazzo che ospita i servizi funebri municipali. Sì. Per entrare bisogna chiedere l'autorizzazione ai servizi stessi e si viene scortati da una guida, insomma una sorta di scaronte immaginario che ti porta a visitare la collezione. Ci sono carri della fine del 700 e dell'800, quindi ornamentari vari, e alla guida ci sono dei manichini, insomma decisamente un po' inquietanti, ma chi c'è stato dice che ne vale assolutamente la pena per avere un'idea di una Barcellona un po' diversa. Di un'altra Barcellona, ci fidiamo. GiuliaBelardelli.tumblr.com è il tuo sito dove si trovano tutti i tuoi articoli. Tu sei una giornalista freelance molto brava e molto eclettica, ti faccio i miei complimenti. Grazie. E dove potete Grazie trovare anche un po' Federico. Di informazioni sui vari link, su questi musei che metteremo anche nelle nostre pagine in Facebook. Ciao Giulia, puoi tornare a dormire, grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, buon sabato, ciao.